Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata a tutti da Deborah Rosciani, ben ritrovati a Salva Danaio. Fino a giovedì prossimo, 11 luglio, per le neomamme lavoratrici sarà possibile inoltrare all'INPS le richieste per il cosiddetto bonus bebè 2013, il contributo, anzi lo chiamano il voucher babysitting, noi cerchiamo di trasformare il nome in italiano, il contributo economico che si può utilizzare in alternativa al congedo parentale per il pagamento dei servizi di babysitter o asilo nido per il nuovo arrivato. La domanda si presenta per via telematica direttamente dal portale dell'INPS e in caso di risposta positiva permette di ottenere un assegno mensile di 300 euro per un massimo di 6 mesi. La graduatoria delle aventi diritto verrà stilata in base alle condizioni economiche e in caso di parità di ISEE, che è l'indicatore sintetico appunto della situazione economica della famiglia, si darà la priorità a chi è stato più rapido nell'inoltrare la richiesta. Salva Danaio vi spiega oggi tutta la procedura per ottenere questo beneficio economico, rispondendo come sempre alle domande degli ascoltatori all'800 24 00 24, se ci volete chiamare per intervenire in diretta, al 349 238 6666 se ci volete invece scrivere degli sms. Potete in alternativa anche rivolgervi a noi attraverso la modalità mail, l'indirizzo è salvadanaio@radio24.it. siamo su Facebook al profilo salvadanaio-radio24 e su Twitter @salvadanaio24. Farete richiesta, l'avete già fatta, è stata facile la procedura, la conoscete, ci spiegherà tutto stamattina Luca Sabatini della Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito INPS. Buongiorno dottor Sabatini e benvenuta a Salva Danaio. Buongiorno Teresa. Grazie per l'opportunità. Grazie a lei naturalmente, perché la procedura è semplice, però abbiamo già avuto anche qualche piccolo intoppo nella prima giornata in cui la procedura è partita. Adesso tutto dovrebbe essersi risolto, ma come al solito quando ci sono queste iniziative, siccome tutti iniziano rapidamente, allora ecco che, come dire, le procedure informatiche si bloccano, però adesso è tutto risolto. Con noi stamattina, anche per parlare un po' del tema delle politiche di sostegno alla famiglia, Guglielmo Loi, segretario federale della UIL, che saluto, è un piacere averla con noi, buongiorno segretario. Piacere anche per me, buon lavoro, buona giornata. Grazie, allora io vi ho dato tutte le indicazioni per interagire con noi che conoscete già benissimo, adesso però siccome questi mercati un pochino ci disturbano in questi giorni perché sono ritornati di nuovo ballerini, vediamo cosa sta succedendo in questa giornata. Vi abbiamo già largamente descritto la giornata di ieri, è stata una giornata in cui le borse sono partite malissimo, poi hanno recuperato sul finale chiudendo tuttavia in negativo, perché come sapete ci sono nuove preoccupazioni intanto in Europa legate alla tenuta politica del Portogallo, del governo di Lisbona. Oggi il mercato appare più sereno, ma naturalmente guarda anche all'evoluzione della situazione egiziana, che peraltro ha fatto di nuovo riprendere la corsa al petrolio, come abbiamo già detto anche ieri, sopra i 100 dollari sia a New York che a Londra. Vediamo però i corsi azionari. Stamattina la borsa che rimbalza di più è Londra, che adesso segna un guadagno di circa un punto percentuale. Parigi più 0,7, Francoforte più 0,5, Milano invece più tranquilla, recupera appena lo 0,33%. Quali sono i temi del giorno? La riunione della Banca Centrale Europea a Francoforte. I mercati sono in attesa della decisione appunto sui tassi di interesse, che non arriverà sicuramente oggi. Gli operatori sostengono che qualunque decisione sui tassi a questo punto Mario Draghi la prenderà dopo le elezioni tedesche di fine settembre. Wall Street chiusa per la giornata dell'indipendenza, vediamo i temi di Piazza Affari. I migliori titoli Ansaldo più 2,38%, Buzzi Unicem più 2,19%, Fiat più 1,99%. Nel settore bancario oggi il recupero più significativo lo mette a segno Monte dei Paschi, che guadagna l'1,77%, Pirelli più 1,77%. In calo di nuovo la Popolare di Milano, che perde il 2,20%, Azimut meno 1,63%, Mediobanca meno 1,38%. L'euro rispolvera 1,30% sul dollaro. Lasciamo la borsa, il tema di oggi, il bonus per le mamme lavoratrici. Un click day che si attendeva da parecchi mesi e che è stato finalmente annunciato proprio per l'inizio di questo mese di luglio. Il semaforo verde, scattato teoricamente lunedì 1 luglio e poi posticipato di un giorno, è quello che riguarda il cosiddetto bonus bebè 2013. L'agevolazione è destinata, fino all'esaurimento di un budget di 20 milioni di euro, a tutte le neomamme che decidono di tornare al proprio posto di lavoro senza usufruire del congedo parentale. Si tratta di una misura voluta dal ministro Elsa Fornero con l'obiettivo di far tornare le donne al lavoro il prima possibile, evitando che possano perdere opportunità professionali. Il bonus verrà erogato in forma di voucher, utilizzabili per le spese destinate a babysitter o asilo nido, e fissato a 300 euro al mese, per un totale di 6 mesi. Per inoltrare la richiesta c'è tempo solo fino all'11 luglio, giovedì prossimo. E per chi è interessato è bene attivarsi fin da subito. La procedura telematica, che si effettua dal sito dell'INPS, prevede la richiesta e l'inserimento del PIN e l'invio di una dichiarazione ISEE aggiornata. Può quindi non essere immediata per tutti da completare e, a parità di condizione economica, nella graduatoria finale si darà priorità a chi è stato più veloce. Diciamo che, secondo le stime dell'INPS, in realtà dovrebbero e potrebbero essere accontentate tutte le mamme che ne faranno richiesta, perché, dottor Sabatini, lo spieghiamo, 20 milioni di euro, sulla base anche del trend delle domande che avete ricevuto fino a questo momento, teoricamente potrebbero essere accontentate circa 11.000 mamme e probabilmente non ci sarà nessuno che rimarrà fuori, ma questa è ancora una previsione, poi il dato definitivo lo conosceremo solamente a partire dalla prossima settimana. Intanto, come stanno andando le richieste? Sì, guardi, fino a questo momento sono quasi 3.000 richieste giunte da parte delle mamme lavoratrici, e quindi siamo rispetto, assolutamente la misura sta interessando, nel senso che in soli due giorni sono un numero comunque significativo. Abbiamo stimato che, rispetto appunto al budget che lei accennava, se tutte le mamme chiedessero il massimo del beneficio, cioè i 6 mesi, potremmo soddisfare circa 11.000 richieste, quindi come dire, non c'è stato un click day con un affollamento, un esaurimento immediato dei posti, quindi contiamo, ecco, nei prossimi giorni poter monitorare lo sviluppo e poi valutare se sia o meno necessario fare poi una graduatoria finale delle richieste. Per appunto individuare gli aventi diritto. Tra l'altro, tra tutte le caratteristiche di questa operazione che abbiamo già indicato, abbiamo detto come si fa la domanda, poi ci entreremo ancora più nel dettaglio, quali documenti bisogna aver pronti appunto per non lasciarla poi in sospeso, che cosa bisogna aver già fatto se si sceglie l'opzione asilo nido, piuttosto che cosa bisogna fare se si sceglie l'opzione babysitter a casa. Non ho capito, però non so se mi è sfuggita questa informazione, quando deve aver partorito la mamma per poter fare la domanda, dottor Sabatini? Sì, chiaramente diciamo, la lavoratrice ha il beneficio in base a quanto previsto dalla norma e dal decreto attuativo, sia se ha già partorito, sia se è in attesa, e quindi è possibile per una gestante con una data presunta del parto che deve essere ricompresa nei 4 mesi dalla scadenza del bando, quindi una data presunta entro l'11 novembre 2013 per questa partita che stiamo svolgendo, diciamo, in quest'anno, e quindi su questo è possibile, è stata data dal Ministero una possibilità, diciamo, più ampia rispetto a lavoratrici già mamme. Ecco, quindi guardi, la interrompo solo perché vedo un messaggio di un'ascoltatrice che ci chiede se ne ha diritto. La sua bambina ha 1 mese, tornerà al lavoro quando ne avrà 6, ha intenzione di assumere regolarmente una babysitter, quindi teoricamente può fare la domanda, però deve forse tornare al lavoro prima? No, diciamo, chiaramente questo periodo può essere speso solamente alla fine del congedo obbligatorio, quindi se la mamma, diciamo, il bambino è di 1 mese, chiaramente credo che debba poter assolutamente completare il periodo di congedo, i 5 mesi uh-huh. obbligatori, nelle declinazioni, nelle forme in cui ha scelto, di, fare, scelto certo. di poter usufruirne, e poi poter usufruire di questo beneficio sperimentale. Uh-huh. Quindi la domanda, la risposta è sì, può fare domanda. Può fare domanda, senso. Poi chiaramente se ha intenzione peraltro di assumere la babysitter, poi magari ci andremo meglio nel dettaglio, non è neanche necessario che abbia già fatto appunto la prenotazione all'asilo nido, come è nel caso appunto alternativo. Nel caso in cui voglia scegliere questa opzione, sì. Benissimo, allora Guglielmo Loi, adesso siamo andati intanto in alcuni dettagli tecnici dell'operazione appunto di richiesta di questo beneficio economico, di questo contributo economico. I sostegni economici alle mamme appunto nel nostro paese ne sarebbero necessari tanti. C'è l'idea peraltro di far diventare questa misura, al momento è una sperimentazione, di farla diventare strutturale. Secondo lei sarebbe necessario, sarebbe una buona idea? Sarebbe necessario un intervento strutturale sul tema in generale della conciliazione vita-lavoro e del sostegno alle lavoratrici che hanno avuto un bambino da poco. Questa è una risposta importante, speriamo che abbia, come dire, un bel riscontro, come sembra. Il tema generale è la scarsa capacità, diciamo, di accoglienza delle strutture pubbliche soprattutto, cioè i nidi, verso le famiglie italiane. Insomma, sullo sfondo c'è questo, che rimane un problema aperto, perché abbiamo, come dire, un tasso di accoglienza molto sotto la media europea, troppo sotto la media europea, molto lontano, e in alcune aree del paese proprio percentuali risibili. Infatti abbiamo fatto anche abbiamo affrontato questo argomento a Salvadanaio tante volte, ed effettivamente appunto le famiglie ci denunciano questa, che è una vera e propria emergenza, tanto che addirittura si passa al nido a prenotare appunto un posto per il proprio bambino addirittura nei primissimi mesi della gravidanza, e quindi è un tema che la famiglia si pone in tempi appunto molto, molto anticipati. Detto questo, appunto Loi, le volevo chiedere un commento su un articolo che abbiamo visto questa mattina su Repubblica. In Francia stanno studiando una misura, anzi un pacchetto di misure, che comprende anche una rivoluzione del congedo parentale. Agli uomini spetteranno per legge, se questa riforma della ministra per le pari opportunità appunto passerà, spetteranno per legge 6 mesi di paternità. Oggi al Papa francese ne aspetta solo uno, sui 3 anni autorizzati per ogni coppia, con un assegno garantito dallo Stato. Che ne pensa? Bellissimo. Era ora. Dove non arriva la coscienza individuale, insomma, ci vuole un po' una spinta, no? Certo. La mentalità è difficile da cambiare, però, si indica una strada anche, come dire, non dico coercitiva, ma insomma forte, piano piano anche le coscienze cambiano. Io vedo già molti padri un po' più attivi di qualche anno fa, insomma, quindi qualcosa si sta muovendo, sempre infatti. Troppo poco. Bisogna fare di più. La legge Fornero aveva fatto qualcosa anche per dare l'opportunità al papà appunto di beneficiare di per potersi godere appieno il momento della nascita appunto del figlio. C'era stata questa iniziativa che ha previsto appunto per il papà il congedo di un giorno appunto concomitanza del parto, e chiaramente un giorno ci abbiamo sorriso un po' tutti, però non è poco, ma almeno qualcosina è certo che si potrebbe fare molto di più. Ritornerei però al bonus bebè, al voucher babysitting, chiamiamolo così, e per entrare subito in merito ai termini tecnici dell'operazione sentiamo immediatamente un papà, che è Sandro da Pistoia, che saluto. Sandro, buongiorno. Buongiorno. Ci dica. Allora, io ho provato a fare la domanda martedì, sì. Ma ho avuto un problema tecnico, nel senso che non sono riuscito a inserire il codice fiscale della madre, e successivamente mi è andato avanti, ma poi si è bloccato dando un errore generico, quindi non sono riuscito a fare la domanda e neanche a parlare poi col numero verde o che mette a disposizione l'INPS. Volevo sapere se ci sono questi problemi tecnici o se è un problema, non so, il sistema potrebbe... Se è un problema suo più generale. No, in realtà Sandro, l'abbiamo già detto, il primo giorno, il primo luglio, ci sono state appunto delle difficoltà, come sempre accade quando partono operazioni di questo tipo. Appunto nella prima giornata i sistemi informatici mettono sempre un po' in croce chi deve fare appunto, chi deve inoltrare queste pratiche. Dottor Sabatini, ne eravate abbastanza coscienti appunto di quello che è successo nelle prime ore? Sì, ci scusiamo con l'ascoltatore, ma effettivamente abbiamo dovuto approntare tutto in 3 mesi, sia tutto l'accreditamento degli istituti scolastici per formare questa sorta di elenco nazionale degli istituti d'infanzia che volevano aderire all'iniziativa, e poi per predisporre ex novo, perché la misura nasce quest'anno, sia questo veicolo online della domanda, sia diciamo una procedura per i patronati. Quindi l'ascoltatore l'ha fatta il primo giorno, io lo vorrei tranquillizzare se è possibile riprovarci, assolutamente, perché appunto con 3.000 domande siamo assolutamente nel pieno della capienza, e quindi ripeto, non c'è stato assolutamente un click day che ha bruciato i posti immediatamente, le domande continuano a pervenire regolarmente, quindi diciamo, che ci può riprovare appunto Sandro. Dovrebbero essere superati i problemi che ha incontrato il primo giorno. Certo, abbiamo ancora in collegamento Sandro da Pistoia. Sandro, volevo solo capire intanto se fosse stato rassicurato, ma mi piacerebbe chiederle anche che opzione ha scelto, il nido per il suo bambino, il nido, quindi il nido. Ha già fatto tutta la procedura, aveva già individuato, appunto aveva già fatto la prenotazione del posto nella struttura individuale. Sì, è già stato assegnato il posto, quindi... Mm-hmm. Benissimo. È il terzo bambino, per cui insomma, avevamo anche bisogno. Ottimo, della Sandro. Cosa. E poi voglio segnalare che io come padre sono riuscito a usufruire di 2 giorni per il parto, per la nascita del figlio. Forse uno era un contratto integrativo della certo, mia azienda, infatti. Probabilmente. Benissimo, Sandro. Viene incontro. Guardi, complimenti, noi ci affidiamo tutti ai papà come lei che hanno questo coraggio in questo momento storico anche un po' complicato, addirittura di appunto puntare su una famiglia numerosa. 800 24 00 24 è il numero verde per le vostre domande. Dottor Sabatini, c'è una domanda, poi volevo fare appunto alcune precisazioni relative al PIN per iscriversi appunto ai servizi informatici e telematici appunto dell'INPS. Un'ascoltatrice ci scrive: lavoro in Germania per un'azienda italiana, pertanto il bambino frequenterà un asilo nido tedesco. Può fare la richiesta del voucher? Ho ancora 40 giorni di congedo parentale residui. Posso fare richiesta per un mese di frequenza asilo? Adesso, al di là di queste seconde domande, vorrei andare alla prima parte. Lavora in Germania, ma per un'azienda italiana. Guardi, è un caso un po' limite. Cioè, sicuramente il problema è sulla scelta dell'asilo, del servizio di infanzia, perché proprio per il carattere sperimentale il decreto prevedeva questa adesione formale per creare questo elenco, che quindi è in qualche maniera vincolante per le lavoratrici, nel senso che chi delle mamme sceglie il contributo, il servizio di infanzia, lo può fare solo e c'è diciamo una tendina che si apre nella domanda per le singole province italiane, per quegli istituti che hanno aderito all'iniziativa, quindi in questo senso c'è questa limitazione. Abbiamo avuto però da parte degli istituti di infanzia una comunque buona risposta, perché abbiamo avuto oltre 2.000 adesioni in tutta Italia, con una distribuzione anche abbastanza importante e omogenea nel territorio italiano, concentrata su Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Veneto per quanto riguarda il 45% degli istituti, però diciamo, sicuramente significativo per i tempi accelerati. Certamente potrebbe chiedere il beneficio dei voucher lì dove l'azienda quindi versi i contributi in Italia, quindi si è incardinata come azienda italiana in questo senso. Quindi bisognerebbe andare un po' nel dettaglio della situazione della nostra ascoltatrice, certo, per poter dare una risposta più precisa. No, è anche interessante questo aspetto che ci indicava: i 2.000 servizi di infanzia che hanno aderito appunto a questo, a questo progetto, quindi diciamo che ecco, l'accreditamento delle strutture individuate per poi mandare appunto i bambini è avvenuto sulla base appunto di quale criterio, come si è aperta questa opzione da parte dell'INPS? Sì, l'elenco era aperto agli istituti che avevano sostanzialmente un riconoscimento regionale o comunale da parte del comune, quindi fossero autorizzati, convenzionati, quindi in qualche maniera, e chiaramente ai servizi di infanzia pubblici. È stata fatta per risposta a una domanda per tempo, con la quale hanno manifestato appunto l'interesse, chi era interessato a questa iniziativa, con l'INPS in questo caso pagherà direttamente gli istituti di infanzia, quindi dopo, nel momento in cui chiaramente la mamma, esatto, il bonus è di 300 euro, non entra in tasca la mamma, no, ma va, no, a pagare direttamente appunto, sì, la retta mensile, o a contribuire al, esatto, pagamento della retta mensile del servizio per l'infanzia. Vi chiedo un minuto di pazienza, anzi un paio, due o tre forse, perché andiamo adesso alla nostra prima pausa pubblicitaria. 800 24 00 24, poi torno al segretario confederale della UIL Guglielmo Loi e continueremo anche a spiegarvi i dettagli tecnici dell'erogazione di questo voucher per la babysitter o per il nido con il dottor Sabatini dell'INPS. È per te ogni cosa che c'è, ninna na, ninna e. La domanda per i voucher destinati alle neomamme per il pagamento di babysitter e asilo nido può essere inoltrata solo e soltanto online, accedendo al sito www.imps.it dal computer di casa o recandosi a un patronato. Per fare in modo che la domanda venga inoltrata con successo, bisogna già disporre del PIN online dell'INPS, che altrimenti va richiesto con un passaggio ulteriore, sempre dal sito dell'ente previdenziale. L'altro aspetto da verificare riguarda la dichiarazione ISEE, necessaria per stilare la graduatoria delle mamme che avranno diritto al bonus. Anche questa può essere presentata in via telematica, a meno che nelle banche dati non ne sia già disponibile una versione aggiornata. Attenzione poi alla scelta tra voucher per babysitter e retta ai servizi dell'infanzia. Anche questa opzione viene esercitata nel momento in cui si compila la domanda online e in caso di errore non si potrà tornare indietro. Nel caso del nido si rende necessario un ulteriore passaggio. L'iscrizione dovrà già essere stata effettuata presso una struttura presente nell'apposito elenco consultabile sul sito. Insomma, se di click day si tratta, non basta certo un click per inoltrare la domanda. E guardando con attenzione a tutta la procedura, ci si rende conto di quanto i tempi siano davvero stretti. Per chi è in difficoltà, l'INPS ha messo a disposizione un numero verde, 803 164 per i numeri fissi, e lo 06 164 164 per le chiamate da cellulare. Cosa che c'è? Tempi stretti, è vero, però di questa misura si hanno notizie almeno dall'inizio dell'anno, e devo dire che molti papà e molte mamme, da quando noi ne abbiamo parlato appunto in un paio di puntate di Salvadanaio, hanno scritto spesso appunto al nostro indirizzo di posta per chiederci: ma ci sono delle novità, quando parte il periodo per poter far domanda di questo contributo? È partito tutto il 1 luglio, e quindi vi stiamo spiegando appunto come si fa. 800 24 00 24, il numero verde per continuare a prenotare i vostri interventi in diretta. Con noi questa mattina il segretario confederale della UIL Guglielmo Loi e Luca Sabatini della Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito dell'INPS. Volevo commentare insieme al segretario Loi il caso di Silvana da Pordenone, gliela faccio ascoltare e poi ne parliamo insieme. Silvana, buongiorno. Ah, buongiorno, mi scusi, stavo proprio ascoltando e la domanda mi sorge spontanea: ma gli autonomi sono compresi anche questo? Sì. O noi dobbiamo andare sempre col pancione fino all'ultimo minuto a lavorare, poi perdiamo le acque e diciamo è caso di andare in ospedale? Esattamente, poi bisogna ritornare anche molto rapidamente appunto al lavoro, in bottega, come si dice. Silvana, che lavoro fai, io lo posso chiedere? Sì, sono con mia figlia a un piccolo ristorantino, e naturalmente io, chiaro, 55 anni, ho finito. Sta parlando però per sua figlia, 30, ecco. Quindi in previsione di fare un bambino, dice, esatto, insomma, magari con un'attività indipendente chiaramente ci si pensa un po' di più. Perché l'80% delle piccole aziende siamo noi. Certo. Ecco. Silvana, grazie per la sua testimonianza. Segretario Loi, a parte che poi spiegheremo che per le lavoratrici autonome in realtà c'è la facoltà di fare questa domanda, però il tema è anche un po' questo. A me viene in mente tutte le volte che ci occupiamo, per esempio, della moratoria sui mutui, e qua i lavoratori autonomi non hanno diritto, qualora fossero in difficoltà, per esempio, appunto a rimborsare il mutuo per la prima casa, non possono fare richiesta della sospensione e tanti altri benefici dai quali sono esclusi. È un problema vero effettivamente, che ne dice? È un problema vero anche perché il lavoro autonomo in Italia, come dire, è molto diffuso, più degli altri paesi europei, e quindi il popolo delle partite IVA. Sì, un po' per obbligo, un po' per scelta, e quindi va considerato indubbiamente questo dal punto di vista sociale una questione vera. Credo che sia un problema di risorse, non tanto di discriminazione, come dire, sulla tipologia di lavoro. Purtroppo dobbiamo fare sempre, il paese deve fare sempre i conti con risorse non infinite, e quindi la selettività è purtroppo inevitabile, a volte colpisce alla cieca, e questo è sbagliato naturalmente. Allora, dottor Sabatini, spieghiamo all'ascoltatrice che in realtà questo beneficio spetta anche, oltre che alle lavoratrici dipendenti, alle lavoratrici iscritte alla gestione separata e alle lavoratrici autonomi iscritte ad altra gestione, sto leggendo proprio i punti della norma. Riprendendo il ragionamento sviluppato dal segretario Loi, effettivamente per un problema di risorse è stata, come dire, scelta una selezione sul punto. In realtà le lavoratrici autonome iscritte quindi alle gestioni artigiane piuttosto che commercianti non possono, in base al decreto attuativo, presentare domanda, mentre è stata estesa, oltre chiaramente alle lavoratrici dipendenti del settore privato, la possibilità anche per tutto il mondo della parasubordinazione, quindi, come lei diceva, della gestione separata, comprese anche le libere professioni, cioè lavoratrici libere professioniste. Quindi c'è stata una selezione probabilmente indotta, ecco, come diceva dottor Loida, problemi anche di limiti finanziari, di budget disponibile. Senta, le volevo chiedere un'altra cosa relativamente invece all'indicatore sintetico, appunto, della situazione economica. C'è un limite relativamente a questo? No, assolutamente. Chiaramente la lavoratrice dovrebbe essere già in possesso dell'indicatore, quindi nella domanda non deve riproporlo in scrittura nella procedura online, ma solo dichiararne di esserne in possesso. E chiaramente saranno il criterio che è stato indicato è quello dell'ISEE più basso, quindi di una situazione di maggior bisogno riferita al nucleo familiare. Quindi adesso verrà stilata una graduatoria in base quantomeno a questo? Sì, questo è il criterio principe per nel caso appunto le dovessimo ricevere domande tali da non poterne soddisfare in maniera completa tutte, quindi sarà appoggiato sull'ISEE, e solo in caso di numeri di parità di valore ISEE verrà data la priorità alla compilazione della domanda, quindi un criterio temporale, chi ha presentato prima avrà una priorità, ma solo in queste ipotesi. Mirko da Pescara ci scrive: la norma si può trovare sul Sole 24 Ore, guardi, io adesso faccio anche questa operazione che non è molto carina nei confronti della mia azienda, ma se va sul sito dell'INPS in questo momento è una delle prime tematiche che campeggiano appunto sul sito dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, per cui Mirko le conviene andare subito lì per verificare. Io stessa ho tirato giù tutte le informazioni appunto relative a questa operazione. Tra l'altro, a proposito di ISE, questo indicatore appunto sulla situazione economica della famiglia, che è un documento, una dichiarazione che serve a fare richiesta di tanti contributi, tanti appunto benefici economici, Loi, a che punto è la riforma di questa dichiarazione? Sta andando avanti, una richiesta anche nostra di accelerare. Certamente l'ISEE è uno strumento, come dire, consentite, meno ignorante della semplice dichiarazione dei redditi, è un po' più raffinato, non è ancora perfetto perché i criteri con cui si quantifica il patrimonio, la ricchezza di una famiglia sono complicati, va continuamente aggiornato. Però il futuro sarà in questo, e cioè siccome gli interventi di natura assistenziale, sociale, di aiuto inevitabilmente saranno selettivi, è evidente che bisogna evitare il drammatico rischio di aiutare chi non ha bisogno e non aiutare chi ha bisogno. Allora, ci fermiamo perché abbiamo i suggerimenti per chi è in viaggio, poi non è... Ah sì, sembrava quasi... Oggi sono veramente andata, Rudy giustamente, Fabio mi dice ma che stai dicendo? Sono le 12.41, 42 anzi, quindi abbiamo ancora 3 minuti di tempo, quindi tutto il tempo per ascoltare ancora un paio di ascoltatori, ascoltatrici anzi, giustamente, sono le mamme che si sono allertate. Sentirei Rossella da Pescara, buongiorno. Buongiorno, salve. Sì, ci dica. Volevo capire se ho diritto al voucher, nel senso che ho terminato il congedo obbligatorio a luglio del 2012, quindi dell'anno scorso, non usufruendo per niente di quello facoltativo. Quindi per quanto riguarda i 2 mesi del 2013, gennaio-febbraio, ne ho diritto, posso far domanda in maniera retroattiva oppure no? Grazie Rossella. Dottor Sabatini, questa è naturalmente una domanda per lei. Sì, se l'ha finito il congedo obbligatorio nel luglio 2012, dovrebbe, la norma prevede che questo beneficio sperimentale possa essere fruito negli 11 mesi successivi a luglio 2012, quindi... ci stiamo a pelo, no? Diciamo che proprio potrebbe essere questione di giorni. Io direi abbiamo ancora Rossella, queste Fabio. Situazioni magari è il caso di poterla presentare comunque la domanda e poi al limite dicono di no. Valutato, Rossella, quando è che ha terminato il congedo? L'obbligatorio il 18 di luglio 2012, quindi sarebbe un mese praticamente. Certo. Però, okay, va Senta, bene. Senta, può anche provare il bambino, è all'asilo o alla babysitter? Nido. Il nido. Grazie Rossella, quindi ecco, magari ci provi, perda un pochino di tempo a fare la domanda. Tra l'altro, il famoso PIN, allora intanto è bene che chi si accorge adesso che c'è questo incentivo, magari non aveva sentito parlare, vorrebbe affrettarsi da qui alla settimana prossima a fare la domanda, attenzione che dovete avere documentazione pronta, non solo la preiscrizione al nido prescelto, ma anche appunto tutti i PIN necessari per fare l'operazione sul sito dell'INPS. E tra l'altro, e questa è una cosa che ho scoperto per me, per un'operazione che ho fatto per conto mio, dottor Sabatini, questo PIN per poter fare appunto le domande bisogna che sia operativo, anzi c'è un termine appunto più indicato che adesso non mi viene in mente, il PIN deve essere proprio, come dire, accreditato in sostanza per poter fare tutte le operazioni sul sito dell'INPS. Termine tecnico è il PIN dispositivo ecco, che comunque ecco, se le mamme anche per questi tempi un po' stretti vogliono immediatamente operativo, io consiglierei di rivolgersi in una delle sedi dell'istituto, che presentandosi fisicamente in sede viene rilasciato già completo e quindi già dispositivo e può subito operare con le domande. Chiaramente questo nell'ipotesi in cui non si voglia rivolgere alle strutture di patronato. Certo. Può essere richiesto anche online, anche attraverso il contact center, viene poi richiesto un documento di identità, però ecco, c'è tutta una procedura che può essere più lunga, ma anche lì comunque l'istituto si sta impegnando ad abbattere molto i tempi di rilascio completo. E io magari suggerisco sempre con la pagina web www.imps.it, proprio nell'home page abbiamo una sezione il PIN online dedicata che spiega anche in maniera abbastanza completa e esaustiva la procedura per farne richiesta. Viva la mamma affezionata a quella donna. Eccoci ritrovati in diretta oggi per parlare del contributo per le mamme lavoratrici. È partita dal 1 luglio la procedura attraverso il sito INPS per poter far richiesta del bonus babysitter, in realtà un bonus che va riconosciuto anche qualora si scegliesse di mandare il neonato appunto al nido. Guglielmo Loi, segretario confederale della UIL, l'INPS ha sentito quanto si è, come dire, telematizzata fino a questo momento per tutti i servizi, ormai non si può prescindere appunto dal servizio informatico e telematico. Che ne pensa di questa rivoluzione? Ecco, io non sono rivoluzionario, sono come dire... Un tradizionalista? No, mi piace più il contatto fisico? No, un gradualista, nel senso che tutte le grandi innovazioni vanno accompagnate, teniamo conto che ci sono molte persone che non hanno, diciamo, una cultura informatica per anzianità o per altro, quindi bene, accompagniamolo da un supporto ancora umano, diciamo così, e diretto nelle sedi IMSS o nei patronati, perché, ripeto, le persone... come hanno bisogno anche, come dire, suggerimenti, orientamenti, consigli che la macchina purtroppo non riesce sempre a dare, diciamo così. Ci vuole una giusta via di mezzo tra innovazione tecnologica e umanità, e credo che si debba lavorare su quello. Esatto, questo è un problema. Anche perché aggiungo, in particolare su questo tema, come dire, si caricano anche altre questioni, cioè l'assistenza, la scelta del nido, il costo, insomma, che probabilmente, ripeto, in un confronto diretto con l'INPS, ripeto, anche con i patronati, con gli stessi comuni, magari si riescono a trovare risposte integrative al tema stesso dell'assistenza. Un problema che peraltro è drammaticamente emerso quando i pensionati hanno appreso che CUD non lo avrebbero più ricevuto a casa, appunto, direttamente, ma avrebbero dovuto scaricarlo dal sito dell'INPS, e per molti, appunto, in realtà era passata l'informazione che dovessero farlo tutti da soli. Poi noi abbiamo spiegato che in realtà, rivolgendosi all'INPS, ad un CAF, eccetera, potevano farlo ugualmente, però effettivamente lì si è testata proprio forse la necessità di essere graduali nel cambiamento di questi servizi. Ritorniamo al tema di oggi, poi chiaramente se vorrà Luca Sabatini dell'INPS commenterà anche queste nostre riflessioni, però avevo un altro paio di casi, di domande. Iva da Bologna, buongiorno. Buongiorno. Ci dica. Allora, io sono una nonna. Sì. E ho sentito da voi questa notizia di questa cosa qui. Ho informato due nuore e una nipote che hanno avuto tutte e tre un bambino, insomma, praticamente. Solo che le mie nuore l'hanno avuto 2 anni fa e non sono ancora occupate. E volevo sapere se questo, invece mia nipote ci rientra dentro, da quello che ho capito bene, perché sta già lavorando, e allora il bambino... Quanto ha il bambino? 7 mesi. Sì, quindi direi di sì. E allora volevo chiedere per le mie nuore, insomma, il fatto è solo per donne che già lavorano? Sì, Iva, temo di sì, ma adesso ci facciamo precisare ulteriormente da Luca Sabatini, però metto anche Pietro da Milano, così prendiamo un po' più domande e rispondiamo a tutti insieme. Pietro, buongiorno. Sì, buongiorno. Ci dica. Non so se c'entra molto la mia domanda. Comunque, no, perché volevo chiedere, nelle coppie di fatto, se l'ISE deve comprendere tutte e due i componenti, certo, della famiglia. Domanda assolutamente pertinente, oppure lei dice, insomma, visto che non siamo sposati, se la documentazione deve riguardare solamente la mamma. Pietro, la ringrazio. Dottor Sabatini, cominciamo appunto con il primo caso, quello della nonna preoccupata per le due nuore che hanno avuto i bambini, che però non sono ritornate al lavoro, i bambini hanno già un paio d'anni. Sì, ma in questo caso non credo che possa essere assolutamente fatta la domanda. Chiaramente la misura è per, diciamo, un bisogno contingente, e quindi in questo senso opera su situazioni, come dire, che in essere non può andare su situazioni dello stesso tipo ma passate in anni precedenti. Anche dobbiamo verificare un attimo un po' più nel dettaglio anche l'ipotesi del bambino dei 20 mesi, perché chiaramente abbiamo detto che rispetto a una fruibilità dovrebbe essere ricompresa negli 11 mesi successivi alla fine del congedo. Quindi diciamo che un po' su tutti gli aspetti non ci stiamo, ecco, diciamo, anche lì forse siamo un po' troppo lunghi rispetto ai tempi descritti. Sull'ISEE, in realtà sull'ISEE questa dovrebbe riguardare assolutamente anche queste situazioni di reddito familiare. Siamo in attesa, appunto, come accennava dottor Loidi, di questa novità molto importante che rivoluzioneranno un po' tutto l'indicatore ISEE, che verrà prodotto in numeri molto più elevati, perché riguarderà singole fattispecie legate ai bonus universitari piuttosto che all'assistenza, piuttosto che i nidi proprio in termini generali. Un dettaglio molto molto importante. Mi veniva in mente quando appunto ci ha presentato il suo caso l'ascoltatrice di Bologna, peraltro in Emilia Romagna, dove i servizi di questo tipo funzionano benissimo, quindi vorrei ritornare un attimo a Guglielmo Loi. Questa è una nonna preoccupata per le nuore. Qualche volta forse ci dimentichiamo, anche se adesso i comuni sono in grande difficoltà e davvero tagliano quanto più è possibile, che qualche volta anziché aspettare magari questi interventi dello Stato, come è il caso di questa operazione del voucher babysitting, ci si dimentica qualche volta magari di rivolgersi al primo cittadino della zona in cui si abita, della città in cui si abita, del paese in cui si abita, perché magari qualche volta, anche se non lo sappiamo, delle politiche di welfare appunto sul territorio ci sono, ma magari non sono ben comunicate. Quindi magari a chi non rientra nell'operazione di cui parliamo oggi, farsi qualche volta la chiacchierata con l'assessore ai servizi sociali può essere utile, segretario. Paradossalmente direi il contrario, cioè il primo impatto dovrebbe essere con l'amministrazione comunale, per quanto riguarda soprattutto nidi, e poi la scuola materna successivamente, o eventuali aiuto per famiglie in estremo bisogno, dove ci sono dei purtroppo sempre più scarsi fondi di aiuto alle persone. E questo strumento integrativo che la legge Fornero ha stabilito è importante, perché può aiutare coloro che non hanno il primo aiuto dall'ente naturale, che è il comune, che è quello che si occupa dei servizi sociali. Con questa innovazione invece poi del voucher babysitter, che ovviamente i comuni non hanno mai sostenuto, non hanno la funzione. Certo. Allora, noi stiamo andando verso la chiusura. Chiedo al dottor Sabatini dell'INPS se dobbiamo dare qualche comunicazione aggiuntiva rispetto a tutto quello che abbiamo detto fino ad ora e che magari ci siamo dimenticati, ma che invece la ritiene appunto sia rilevante. Dottor Sabatini. Sì, volevo quindi ricordare che martedì noi avremo uno spazio per ricevere domande che è quindi esteso all'11 luglio rispetto al bando iniziale, proprio per questo slittamento di una giornata, che la pubblicazione del bando e comunque in generale la pubblicazione della graduatoria, quindi dei beneficiari, è prevista per il 22 luglio e già nelle giornate successive saranno disponibili presso le nostre sedi voucher per chi ne è beneficiario. Chiaramente poi nel rapporto con gli istituti scolastici ci sarà tutta la quindi entro agosto le famiglie interessate saranno se hanno diritto al bonus o meno. Perfetto. Esatto. Grazie a tutti per essere stati con noi, a Luca Sabatini dell'INPS, al segretario della UIL Guglielmo Loi. Noi ci salutiamo, naturalmente la puntata termina qui, ma ritorniamo come sempre domani. A tutti buona giornata.